un'insalata con frutta secca e una minerale. E intanto cerco fra le stelle il grande carro e le mie sorelle. Oh fortuna, salta in braccio come la luna per quest'anno e per la vita. E da lontano spunta l'arrivo. Oh oh oh, oh capitano fammi arrivare. Oh oh oh oh, mentre la nave va non ne posso più.